Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Vi do esattamente qual è il senso della riflessione su cui vorrei essere supportato questa mattina, mentre cerca anche Radio 24 di dare a tempo reale, nella miglior maniera possibile, aggiornamenti su quello che sta accadendo a 40 km da Parigi, in una zona rurale industriale. C'è una palazzina a una quarantina chilometri da Parigi, dove c'è una fabbrica di segnaletica industriale, la Martin & Goel. Io la sto guardando come se fossi lì, come può farlo qualsiasi mortale in Europa. La sto guardando attraverso France 24, Francia 24, la televisione che sta seguendola in diretta, ma addirittura la sto guardando sulle mappe Google, vista dall'alto questa zona, una zona tranquilla, metà casette, diciamo, segnate da un'architettura locale, l'altra metà palazzine industriali, dove dentro ci sono operai. Attorno c'è il deserto, siano soltanto persone in divisa, siano soltanto mezzi militari, si vedono elicotteri. E uno riflette sul fatto che ci siano comunque un dispiegamento, si parla di 88.000 uomini comunque, non in quell'area, ma in generale mobilitati su questo evento, per due persone asserragliate, due ragazzi armati fino ai denti e disposti a morire, perché una delle tante testimonianze di un cliente di questa fabbrica di segnali che si era avvicinato questa mattina per fare i suoi consueti incontri di lavoro, pare li abbia incrociati, addirittura gli abbia dato la mano. Questo leggo sulle tante notizie che stanno circolando. Loro gli hanno detto: non uccidiamo civili, come se non avessero già uccisi in abbondanza nel giorno precedente. Hanno detto: però vogliamo, diciamo, cerchiamo il martirio. Quindi 88.000 uomini mobilitati contro un nemico che comunque cerca la morte, quindi non ha nessun interesse a salvare la propria vita. E quindi quale sarà la negoziazione che potranno fare con questo ostaggio? Quali sono le speranze a questo ostaggio di essersi salvato, di salvarsi con due persone che comunque cercano la morte? Perché naturalmente il passo iniziale della loro uscita dal mondo civilizzato è proprio quello di inseguire il martirio. Beh, e questo volevo dirvi: questa mattina cosa state facendo voi in questo momento? State seguendo questa vicenda? Vi sembra una vicenda che vi riguarda di persona, una cosa lontana che riguarda la Francia, che in fondo non è il nostro paese? E voi pensate che realmente possiamo sentirci esenti dall'attenzione e anche dal timore o anche dalla riflessione su quello che sta accadendo? Che due persone possano tranquillamente entrare nella redazione di un giornale senza che nessuno abbia pensato che potesse essere un obiettivo a rischio? Voi pensate che in realtà è giusto, è vero, è concretamente accettabile il fatto che nessuno di noi si trovi in questo momento sotto un rischio reale? Sono soltanto dei fatti isolati che riguardano comunque delle situazioni delle persone che in qualche maniera, come qualcuno ha già detto, se la siano cercata, sono andati proprio a disturbare nel cuore di un problema particolarmente scottante. Beh, questa mattina ci terrei a avere il vostro parere, di essere confortato comunque o corroborato in quello che dico da chi, come me, sta magari seguendo queste vicende. I nostri numeri sono, come al solito, 800 24 00 24. Quale dimensione, quale colore e quale sensazione date alla vostra paura oggi, ammesso che l'abbiate? Può essere considerato come uno dei tanti eventi che probabilmente non vi toccano di persona. Una cosa che mi fa abbastanza riflettere, se analizzo la mia situazione in questo momento, che mi sembra di stare svolgendo un'avventura attraverso un videogioco, esattamente gli stessi strumenti a disposizione che ha un giocatore di videogioco. Può avere una visione dall'alto, uno zoom della situazione, può avere, sempre aprendo varie finestre in rete e vedendo varie situazioni, avere l'esatta descrizione, la dotazione delle armi che hanno le persone, i possibili e probabili nemici o avversari con i quali ci si deve contrapporre. Può avere addirittura una visione della mappa topografica del luogo in cui si svolge l'episodio. E la mappa di Google mi sta confortando, la sto guardando quei giardini, sto guardando quei boschetti, sto guardando quei tetti di quelle case, tutte uguali, tutte caratterizzate probabilmente dall'architettura di quella zona. Sto immaginando le persone asserragliate dentro quelle case, chiuse, che non escono, blindate, che anche loro guardano la televisione, anche loro hanno la rete e probabilmente anche gli stessi terroristi avranno un televisore, avranno uno smartphone, staranno guardando esattamente quello che guardo io, e nel grande gioco però loro sono protagonisti. Voi siete veramente sicuri che in realtà questo non potrebbe accadere anche sotto casa nostra, che un domani nella mappa Google che rappresenta il teatro della vicenda ci siamo noi, c'è casa nostra, c'è la fabbrichetta di segnali stradali accanto a casa nostra? 800 24 00 24. Vincenzo Bisbiglia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Vincenzo Bisbiglia, l'ho chiamato al telefono questa mattina perché è la prova concreta che in effetti non siamo in un videogioco, o perlomeno se qualcuno pensa di essere un videogioco probabilmente dovrà cominciare a organizzare quelli che sono i suoi poteri, le sue difese, le sue maniere per arginare quello che è un possibile pericolo che possa tracimare anche vicino a casa sua. Abbiamo letto e sentito di grandi rassicurazioni che da noi comunque la situazione è sotto controllo, se mai esistessero pericoli le aree sensibili sono presidiate. In questo momento le aree sensibili per eccellenza sono le redazioni dei giornali, visto che sono due giorni che i giornalisti scendono in piazza, che tutti noi manifestiamo e diamo il nostro contributo e ci mettiamo in prima linea per la libertà d'espressione massima che passa attraverso la satira, una forma di giornalismo molto particolare, ma non per questo meno attinente, meno calzante alle istanze di cui si fa portatrice. Il collega Vincenzo Bisbiglia ieri si è voluto prendere rispondere a una sua curiosità per il giornale per cui scrive, che è il quotidiano Il Tempo di Roma. Ha voluto fare un giro come se lui fosse un probabile interessato ad entrare furtivamente nelle redazioni dei giornali, un giro per tutte le redazioni dei giornali di Roma. È la capitale d'Italia, molte sono le sedi principali dei quotidiani, molte sono le sedi appunto romane di altri giornali. Ammesso che Vincenzo Bisbiglia fosse un malintenzionato, qual è stato il risultato della sua indagine, Vincenzo? Beh, il risultato è che nei giornali dove c'è difficoltà a entrare in redazione è perché ci sono magari alle spalle grossi gruppi editoriali e quindi ci sono anche i fondi per pagarsi vigilanza privata, magari per mettere metal detector addirittura. Ma in quali giornali di Roma tu hai trovato questo tipo di protezione? Ma metal detector, vigilanza privata? Repubblica è il giornale più organizzato in questo, devo dire. È blindato Repubblica? È più difficile entrare al tribunale di Roma che o in un carcere che a Repubblica, perché è difficile anche per un visitatore normale. Quindi a Repubblica comunque non entrerebbe un malintenzionato. Ma tu come ti presentavi? Tu ti presentavi naturalmente come una persona qualsiasi, non ti qualificavi? Ma, sì, io inizialmente cercavo di inventare delle scuse, magari di essere magari un corriere. Ecco, non eri conosciuto, diciamo, non ti conoscevano. No, soltanto insomma quando poi è stato proprio indispensabile, a quel punto mi sono presentato. Allora, a Repubblica non sei entrato, in quali altri giornali sei andato? Ah, sono andato a Messaggero, dove comunque insomma sono riuscito a entrare nel palazzo, poi ci sono le guardie armate. Qui al Sole 24 Ore sei venuto? Al Sole 24 Ore non siamo venuti perché abbiamo cercato di tutto rispetto, abbiamo cercato di preferire diciamo le redazioni più sensibili anche dal punto di vista politico, no? Comunque c'è un tornello qua sotto, diciamo c'è una signora, però è una signora molto gentile, sì. Ma infatti è proprio lo scenario che abbiamo trovato al Corriere della Sera. Corriere della Sera, redazione romana, ci sono due portinai, e parliamo del Corriere della Sera, c'è la porta aperta, due portinai indifesi e c'è poi una scala senza neanche la porta che porta su in redazione. Quindi entrare al Corriere della Sera, insomma, magari con un'arma. Diciamo che, come sempre accaduto nelle regole del terrorismo, in effetti blindare tutti i cosiddetti obiettivi sensibili sarebbe anche molto difficile. Una città di Roma in cui diciamo c'è una così preponderante impiego di forze di sicurezza per blindare deputati, senatori, sindaci, no, sindaco no, dice che non la vuole, comunque personaggi istituzionali, probabilmente nessuno ha pensato di mettere una sicurezza almeno di fronte ai giornali. Questo è un punto di partenza. Giornate un po' particolari, no? Perché comunque dopo quello che è successo l'altro giorno in Francia c'era stato un allarme concreto anche in Italia, no? Comunque c'era stato una un'attenzione, no? Diceva che si diceva che si voleva aumentare l'attenzione nei confronti di alcuni giornali, ma diciamo quello noi non l'abbiamo trovato. Io per esempio sono andato anche nella redazione del Foglio, no? Il Foglio è un giornale molto... È il giornale più, diciamo, Ferrara in questo momento è la persona più in vista rispetto all'opposizione ideologica nei confronti, diciamo, del mondo islamico, quindi dovrebbe esserci sotto un carro armato il Foglio, invece no. No, c'è però una camionetta dell'esercito 300 metri più avanti che... Però almeno il Foglio è presidiato, ecco, almeno questo. Sì, non il Foglio, c'è una camionetta dell'esercito che sta un po' più avanti, vicino alla sede di... credo di un'ambasciata, insomma. Ah, beh, quella presidia l'ambasciata. Fermo un attimo, stiamo qualche ascoltatore. 800240024. Filippo, buongiorno. Buongiorno, io suggerirei il metodo Superman, ossia per... No, questa non è la mattina delle cazzate. Sa di dire una cosa seria, bene? Non ho voglia di scherzare questa mattina. No, il concetto era questo. Per Superman la cosa negativa è la criptonite e per loro, io presumo, il maiale. Quindi userei proprio i maiali. Per stanarli, mandare una mandria di maiali. Loro cercano l'immolazione, invece noi gli dobbiamo dare l'umiliazione. Ah, lei dice un tipo di operazione psicologica, lei considerando... Sì, proprio rendere totalmente vano il loro tentativo, perché loro si esalterebbero ad essere uccisi. Secondo lei, invece di mettere 88.000 uomini, se uno liberasse un camion di... Invaderei la sede dove si trova con i maiali. E cosa farebbero, secondo lei? Cosa farebbero? Tenderebbero sicuramente di ucciderli, ma prima o poi finirebbero. È risaputo che loro non calpestano il suolo calpestato dai maiali, perché è l'essere più sporco. Allora, quindi lei dà un suggerimento proprio di tipo strategico, cioè inutile mettersi con le bombe a mano intorno, perché tanto non chiedono altro che di essere uccisi, però mettendo i maiali... Ho capito. Renderei totalmente vana la loro immolazione, perché diventerebbe per loro la più grossa umiliazione. Sì, come si diceva, mandare un esercito fatto di donne nei confronti dei jihadisti, non tollererebbero mai di avere delle donne come avversario, quindi sono ipotesi. Non so quanto poi questa cosa avrebbe un effetto concreto, però intanto ha fatto un suggerimento. Diamo il traffico, poi continuiamo tra un istante. Melog. Cronache meridiane. Stiamo come gran parte del mondo seguendo in diretta quello che è l'asserragliamento e la resistenza e la negoziazione fra due fratelli, Said e Sherif Kouachi, che sono chiusi in una impresa, nel copannone di un'impresa segnaletica stradale nella zona di Dammartin-en-Gaul, a 40 km da Parigi, si sta negoziando, hanno un ostaggio. Pare una signora che sia una dipendente di questo tipo di attività. Noi che stiamo seguendo tutti come fosse un videogioco, guardando la diretta televisiva, vedendo questa prateria, questa bella pianura lievemente nebbiosa, sullo sfondo si vede il capannone industriale, si vede la forza ingente di polizia intorno, ci stiamo domandando quanto noi facciamo parte di questo videogioco, quanto ne siamo emotivamente e concretamente coinvolti, soprattutto ne abbiamo paura. Francesco, buongiorno. Francesco? Buongiorno, mi sente? Sì, certo, bene. Allora, chiamo da Salerno e io penso che siamo molto coinvolti. Proprio l'altra sera alla Zanzara ha chiamato una persona da Salerno, la mia città, dicendo di essere un islamico qui, insomma, e minacciava. Si ferma un attimo, Francesco, dobbiamo dare la linea al collega Simone Spezza che ci dà un aggiornamento, poi riprendiamo con lei, un istante. Grazie Gianluca. Allora, noi prendo la linea solamente per collegarmi con il nostro inviato a Parigi, Sergio Nava, proprio appunto per fare un punto sulla situazione, per sapere se ci sono aggiornamenti sul blitz del quale tu stesso stavi parlando. Sergio. Sì, ciao Simone, al momento non ci sono aggiornamenti, se non che la situazione si è completamente calmata intorno alla tipografia. Si tratta di una piccola tipografia all'interno della zona industriale di Dammartin-en-Gaul, si stanno aspettando un punto stampa, perché al momento le forze speciali, la polizia non hanno dato indicazioni ai giornalisti su cosa stia avvenendo. Le voci sono veramente le più diverse, si parla di una presa di contatto con i due fratelli Kouachi, asserragliati con almeno un ostaggio, ma potrebbero essere anche di più, e quindi l'unica novità, se possiamo dire, è che la situazione ora si è totalmente calmata, se questo sia un buon segnale, difficile dirlo di certo, la zona è completamente blindata, tutte le forze speciali sono concentrate per quello che si annuncia essere l'epilogo della strage a Charlie Hebdo. Da Parigi è tutto. Grazie Sergio Nava, con il quale torneremo a collegarci ovviamente in effetto giorno. Gianluca Nicoletti, a te. Allora, stavo parlando con l'ascoltatore di Salerno che aveva qualcosa da aggiungere con il suo punto di vista. Mi rendo conto che nonostante il dispiego enorme di mezzi di informazione, di visualizzazione, per poter seguire come se fosse realmente la console di un videogioco questa vicenda, in realtà quello che accade veramente è nella negoziazione punto contro punto tra chi ha il contatto con i due terroristi, che hanno già detto, e è probabile che questo sia senz'altro il loro disegno, perché non ne vedrei altri, per loro arrendersi comunque cedere sarebbe non poter più entrare nel paradiso che pensano di essersi conquistati uccidendo e massacrando nei giorni precedenti. Allora parlavo con Francesco, buongiorno. Sì, allora Gianluca, non è un videogioco, purtroppo è la realtà, come noi dicevo. Sto seguendo, lo stiamo seguendo tutti come se fossimo alla console di un videogioco. Sì, quello sì. Però la realtà poi ci induce a dei dati reali, come il signore che l'altra sera ha chiamato alla zanzara, minacciando, facendo insomma certe dichiarazioni, anche minacce dirette ai vostri conduttori, proprio dalla mia città. Quindi quello che ho detto ai miei concittadini è di stare attenti, di davvero tenere gli occhi aperti, perché chiunque può. Ma secondo lei esistono ancora, esistono i limiti geografici o politici della mia città? No, ormai no. Siamo tutti in una grande città, secondo me. No, non è che a Salerno c'è più pericolo di quello che può essere. Siamo tutti in una grande città, però devo settorizzare per dire che ognuno, ecco, in questo grande monopolo, diciamo così, deve guardare il suo settore, perché purtroppo dappertutto ci sono persone, ci sono tante brave persone, attenzione, che sono venute, ci hanno portato qualcosa, perché l'integrazione, ecco, è questo, è portare qualcosa e ricevere qualcosa. Quindi le culture che si fondono, ma quello che dicono questi signori, ecco, parliamo dei fondamentalisti, parlano di imposizione, ecco, la bandiera che però in questo momento, scusi Francesco, se no allarghiamo sempre la minestra. In questo momento non sto parlando, non mi pongo il problema dell'integrazione o del conflitto, però mi sto ponendo, siamo in una situazione a rischio, ci sono comunque, perché pare che anche l'episodio dell'altra sparatoria che c'è stata nei dintorni di Parigi, questa uccisa una poliziotta, avesse qualche collegamento, quindi c'è l'idea che esista comunque una rete folle, se vogliamo, autonoma, non coordinato, coordinatissima, li possiamo chiamare lupi solitari, li chiamiamo zombie, ecco, ognuno ha il suo nome, poi ognuno ha la sua fantasia e la sua esperienza. Ho visto addirittura, pensi, una disquisizione su Facebook sul potere distruttivo del proiettile del Kalashnikov, se fosse blindato o no, se doveva scoppiare la testa del poliziotto ucciso, anche lui islamico oppure no, e via dicendo. Diventiamo tutti esperti, non vorrei trasformarla in una grande chiacchierata al bar dello sport. Mario, buongiorno. Buongiorno Gianluca, grazie. Sì. Allora, il punto di vista mio è questo qui, siamo tutti a rischio anzitutto, e la cosa più grave è che secondo me questa gente prima o poi sposterà la sua attenzione da quelli che sono obiettivi sensibili, quindi naturalmente protetti, ad obiettivi che possono sembrare solo meno sensibili da un punto di vista ideologico o altro. Ma per quanto sia empirica la descrizione del collega Bisbiglia questa mattina, comunque abbiamo visto che i giornali nella capitale d'Italia non sono protetti. Eccetto no, ma al di là di questo, il mio incubo, Gianluca, è Beslan. Il mio incubo è quello. Pensa a che cosa ci vorrebbe per proteggere tutte le scuole d'Italia. Ecco, allora qual è la cosa che vi fa più paura? Lei pensa, dice, se dovessimo proteggere le scuole, poi le metropolitane, gli autobus, le stazioni, gli aeroporti. È che ci sarà sempre una piccola, magari piccolissima percentuale della popolazione mondiale che per sua natura è affetta dal desiderio della violenza, e che non c'è modo purtroppo di fermare questa gente, perché proteggerci tutti quanti è impossibile. E ma il terrorismo è questo, perché la differenza fra una guerra fra due spopoli e il terrorismo è questo: il terrorista può apparire improvvisamente nell'autobus, nella metropolitana, in un ristorante. Le ripeto, io ho visto giorni fa La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo, un film parla di eventi del 54, esattamente era questa: improvvisamente accadono episodi cruenti, violentissimi, in luoghi dove la gente vive normalmente, non è che uno colpisce le ambasciate che sono obiettivi iperprotetti. Mario, abbiamo parlato. Nicola. Sì, buongiorno, sono Nicola, chiamo da Belluno. Io volevo alimentare quest'idea che siamo dentro un videogioco del quale sono stato un giocatore inconsapevole, perché l'anno scorso mi è capitato di conoscere quel famoso Mesinovic che poi è andato a combattere e è morto in Siria portandosi dietro con il figlio di 3 anni. Sì. Lei l'ha conosciuto. Ecco, ci racconti allora la sua esperienza di prima mano, perché sennò sembra che parliamo di persone che non esistono. No, questo esiste, e secondo me il fatto che siano calati dentro una realtà, che vivono questa realtà, l'ho conosciuto perché è venuto a ridipingere la mia casa. Quindi era, era un operaio che faceva il pittore di Pengio. Sì, un lavoratore autonomo, perché poi effettivamente la fattura non l'ho mai vista. Però il giorno, anche quando ha sbagliato a fare un lavoro, è ritornato, l'ha rifatto bene, è passato di qua a prendersi i soldi il giorno che aveva suo figlio anche in macchina, e quindi forse poi stava partendo. E quindi la sensazione del 2014, mia e di mia moglie, è stata quella di entrare inconsapevolmente dentro un gioco del quale comunque... Lei dice una persona normalissima, cioè, anche... soldi, probabilmente quei soldi sono serviti per andarsene insieme. Anche dice una persona normalissima, anche stranamente, singolarmente, scrupolosa e onesta nel lavoro, improvvisamente però con quei soldi si è fatto il biglietto e è andato a combattere. Esatto. Piacevole anche da averci a che fare, cioè anche quando io ho mangiato un panino col prosciutto, non è che questo si è alzato da tavola, è rimasto lì. Lei dice se non fosse morto combattendo in Siria, probabilmente era di questi reduci di ritorno, potrebbe essere uno dei tanti di cui oggi abbiamo paura e perplessità. Grazie. Enrico, buongiorno. Buongiorno, io volevo questa tragica vicenda dire due cose. Una sul discorso delle vignette. Personalmente la satira, quando va a riguardare le cose religiose, anche cattoliche, anche cristiane, buddiste o così, non la provo, perché il... Sì, ma che c'entra adesso? Questa è la trasmissione di ieri, era, però scusi, stiamo parlando di un dato di fatto. Era solo un... Vabbè, io non la prova. Abbiamo divergenza in questo. Va bene, sì. Anche se queste vignette non erano... Ma perché piange la Madonnina? Qual è il problema? Scusi, qual è il problema se uno fa... Si danna l'anima, se lei è un credente, sono problemi suoi, andrà all'inferno con i diavoli e i forconi, se irride la santità o la maestà di Dio, sono fatti sì, suoi. Però lei quando irride una cosa in cui io credo, mi permette, mi offende. Sì, si offende, ma non è che le vengo con un mitra e dico, beh, tutto sommato la sono cercato. Questo non è giustificato. Ma la grandezza, la grandezza e la forza della sua fede sarà che lei dirà ho compassione di te, pregherò per te perché non hai capito la maestà della fede. Grazie. Marco, sì, suo punto di vista. Il mio punto di vista mi tocca fare anche il prete questa mattina, mi sembra veramente paradossale. Prego. No, non possiamo avere sempre paura. Io vedo tutti questi giorni queste comunicazioni di paura. Questi qui sono solo dei mercenari che vanno in giro a uccidere, come facevano tanti anni fa le Brigate Rosse, come sì, facevano. Lo vado a raccontare, alle persone che abitavano in quella via dove sono passati l'altro giorno col Kalashnikov. Ho capito, ma noi non possiamo chiuderci tutti in casa per questo motivo. No, assolutamente no, però facciamo un punto, non sottovalutiamo l'evento, ecco. Non sottovalutiamo l'evento, però viviamo in un mondo libero, dobbiamo essere noi a tenerlo libero, non solo coloro che ci minacciano. Noi non dobbiamo aver paura di quelli che ci minacciano, noi viviamo in un mondo libero. È questo che voglio dire io, Nicoletti. Sì, sì, ma è la ragione per cui ieri ho detto che magari i colleghi del Financial Times e di altri giornali che hanno oscurato le vignette per paura di essere coinvolti nella cosa, se ieri avessero tutti i giornali del mondo pubblicato in prima pagina tutte le vignette, esatto, è strano che non si poteva pensare che questi potevano sparare poi a tutti i giornali del mondo. Invece i distinguo, si offende la divinità. Ecco, queste sono le cose che danno forza comunque al terrorismo. La non compattezza di impugnare il vessillo della libertà di espressione, nasce tutto da quello, secondo me. Io concordo con te, Nicoletti, queste cose qui noi dobbiamo smettere di aver paura di una vignetta, come dobbiamo smettere di aver paura di uno che ci minaccia. Grazie. Geris, pronunciato bene, sì. Pronto? Mi sente? Sì, ecco. Pronto? Sì. Buongiorno. Ecco, no, io volevo introdurre una cosa un po' sottile nella discussione, cioè Se li consideriamo terroristi, dobbiamo considerare che c'è una strategia del terrore molto più organizzata, che ha quindi degli obiettivi molto molto importanti, quindi terrorizzare l'Europa. Questo è già mi sembra che sia già abbastanza, il fatto che abbiano molti mezzi, molti soldi, molte forze a disposizione. Però ci sono delle forti contraddizioni che potrebbero anche farci credere che siamo anche di fronte forse a degli esaltati di quell'area, ma dove la cosa potrebbe poi finire con questa logica in cui un esaltato poi agisce. Sì, ma gli esaltati difficilmente si muovono in maniera così coordinata, e oggi viviamo in un mondo in cui il coordinamento avviene comunque attraverso mezzi molto comuni, molto semplici, come noi seguiamo a tempo reale quello che sta accadendo. Beh, riprenderemo questo argomento, sono convinto che non finisce qui. Alla prossima.